GR24 Sport. Buongiorno da Dario Ricci. Calcio mercato nel segno del Paris Saint-Germain degli sceicchi. Dopo Lavezzi e Thiago Silva, alla corte di Ancelotti oggi dovrebbero arrivare anche il talento del Pescara Verratti e soprattutto lui, Zlatan Ibrahimovic, con lo svedese pronto a firmare un quadriennale da 14 milioni e mezzo di euro a stagione. La Juventus intanto ha presentato Lucio per il 34enne difensore brasiliano ex Inter, cambio di casacca, e allora cambia anche il conto degli scudetti post Calciopoli. Sentite un po'. Io penso che rispetto che la Inter hai sbagliato, perché io sono uno che sempre dove vado provo di impegnarsi al massimo per difendere la colore della mia squadra. Io oggi il mio colore è bianco e nero e devo provare del massimo mio per fare il mio meglio qua. Ti sei fatto un'idea sugli scudetti? Per te sono 28 o 30 quelli che ha la Juventus? Io penso che la stessa idea che ha detto il presidente. Il moto mondiale al Mugello, trionfa Jorge Lorenzo davanti a Pedrosa e Dovizioso, buon quinto Rossi, solo ottavo Casey Stoner. Sentiamo Lorenzo, leader mondiale con 19 punti di vantaggio proprio su Pedrosa. È stata una gara dura perché all'inizio io pensavo di andare via, però Pedrosa era lì, Dovizioso era lì. Per fortuna alla fine, guidando bene, passando della barriera del 48, è potuto andare via e stare più calmo. Sono molto contento di ritornare ad andare via un pelino nella classifica. Dovizioso, terzo, nel successo ci aveva sperato. Ci credevo all'inizio, ho detto dai ci provo. Però Lorenzo ne aveva di più in gara, è stato bravo semplicemente a fare quello che avevamo già visto nelle prove. Peccato, ci credevo davanti al pubblico italiano, al Mugello. Ci tenevo, ma era impossibile. Al Tour de France, ieri, ai piedi dei Pirenei, nel successo di Sanchez, nell'arrivo a Foix, protagoniste inattese le forature. Pochi secondi e si è anche capito il perché. Ieri gli unici problemi sono arrivati da delle puntine da disegno disseminate lungo il muro della Paghea. Evans è quello che mi ha fatto più le spese, anche se a Foix sono stati almeno 30 corridori e anche alcune motostaffette dell'organizzazione. Secondi interminabili ad attendere una ruota che non arriva, poi l'inseguimento interrotta una, due, tre volte da altrettante forature. Davanti la maglia gialla Bradley Wiggins, che davvero gentleman, induce il grosso del gruppo a non attaccare, cosa che tutti accettano, meno uno, un francese, Pierre Roland, che va all'attacco. Non l'avesse mai fatto, il gruppo si organizza e lo va a riprendere, poi ripreso, torna quieto per consentire a Evans, attardato per le forature a ripetizione, di rientrare. Oggi altra tappa tranquilla, prima del secondo e ultimo giorno di riposo, domani. Tappa corta di soli 158 km per velocisti, da Samatana a Pau. Da mercoledì Pirenei col Tourmalet che attende la battaglia. Pierre Augusto Staggi, Radio 24, Sole 24 Ore, Samatana. Per il tennis, quarto successo stagionale, record per una giocatrice italiana, per Sara Errani, la finalista del Roland Garros, ha vinto sulla terra battuta il torneo di Palermo, superando in 2-7, 6-1, 6-3 la ceca Strikova. Conto alla rovescia per le Olimpiadi di Londra, al via il 27 luglio, Federica Pellegrini sta rifinendo la preparazione nella sua Verona, sperando poi di nuotare nell'oro nella piscina londinese. Sono convinta di aver fatto tanto in questo sport, penso di non aver fatto ancora tutto e quindi insomma io la vivo con molta serenità. Ovviamente io cerco di allenarmi per raggiungere i miei obiettivi. Per il momento è tutto, ancora una buona giornata.